Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Oggigiorno, non appena si verifica una situazione di emergenza, i social network vengono invasi da segnalazioni, indicazioni, commenti, eccetera, eccetera. Raccogliere, interpretare e razionalizzare questo segnale che emerge da una massa di tweet, post e chi più ne ha più ne metta può essere naturalmente di grande aiuto quando si tratta di identificare tempestivamente l'insorgenza di un evento calamitoso e anche di circoscriverlo geograficamente. Seconda battuta, poi, grazie agli smartphone, è possibile veicolare alla popolazione informazioni utili come percorsi da evitare, vie di fuga, eccetera, eccetera. Ebbene, Torcia è la prima app che nasce appunto con queste finalità. È stata sviluppata da un team di partner, tra cui Politecnico e Fondazione del Politecnico sempre di Milano, Alcatel Lucent, ed è stato finanziato dalla Regione Lombardia. Ne parliamo con la coordinatrice scientifica del progetto Torcia, la professoressa Chiara Francalanci. Buonasera Francalanci. Buonasera. Senta, allora andiamo con ordine. Il vostro primo obiettivo, abbiamo detto, è quello di identificare il più in fretta possibile l'insorgenza di una situazione di emergenza. Come fate? Dunque, noi facciamo riferimento alle fonti social, quindi collezioniamo continuamente in tempo reale informazioni da social media. In particolare dal microblogging, Twitter, che è una fonte molto tempestiva e una fonte ormai di riferimento per gli utenti dei social in caso di emergenza. Istintivamente si va su Twitter per capire che cosa sta succedendo. Tipo, qui è venuta giù la montagna, no? A un certo punto uno lo scrive su Twitter e questi messaggi sono pubblici, no? Esatto. Quindi voi li leggete tutti? Noi li leggiamo tutti, li analizziamo, cioè cerchiamo di capire se sono messaggi che fanno davvero riferimento a un'emergenza oppure se sono semplice buzz in rete che in realtà non è rilevante dal punto di vista della gestione delle emergenze, lo facciamo automaticamente con un motore semantico. Cioè voi trovate, non so, tante frasette con scritto alluvione dentro. Ora uno può aver rotto lo sciacquone del bagno e scrive oddio c'è un'alluvione in casa. Però ce n'è uno solo magari in tutto un paese, allora lì è improbabile che sia un'alluvione. Se sono 100 nello stesso paese che dicono oddio c'è l'alluvione, probabilmente è veramente un'alluvione, no? È questo. Esatto, ed è proprio quello che facciamo, okay. Cioè cerchiamo di capire dall'informazione, anche proprio dal testo dell'informazione, sì, dove è localizzato quel tweet, di che cosa sta parlando e se fa riferimento a una particolare località geografica. Certo. Ecco, senta, la prima cosa che fate quando vi rendete conto che è successo esattamente questo è quella di sollevare un warning, un allarme, intanto nei confronti di chi e poi quanto tempo si guadagna rispetto ai canali tradizionali? Dunque, l'allarme è sollevato nei confronti di chi, delle autorità, delle istituzioni che devono gestire l'emergenza in primis, sì, la protezione civile. Certo. Esatto. Quello che abbiamo notato è che i social, rispetto alle allerte ufficiali della protezione civile, Twitter in particolare, sono decisamente in anticipo, danno ore di anticipo. Che sono tantissimo in certe situazioni, no? Che possono tantissimo, essere tantissimo. Possono essere sì. Tantissimo. Sì. Senta, a questo punto veniamo all'app, quella che ci possiamo scaricare noi tutti sul cellulare, no? Diciamo che mi trovo in mezzo a un'alluvione, coi piedi a bagno, però sono stato previdente, ho la mia bella app Torcia sullo smartphone. A questo punto l'apro e che cosa me ne faccio? Dunque, intanto guardo l'informazione disponibile sulla app e riesco a capire che cosa sta succedendo più velocemente che non accedendo a Twitter. Perché la stessa informazione filtrata, quindi non ho più la sporcizia, non devo più fare la fatica di trovare informazioni rilevanti che invece si devono fare su Twitter e in molti casi già validata da protezione civile. Quindi trovo sostanzialmente una selezione dei messaggi tweet. Esattamente, trovo una selezione di quelli rilevanti e validati. Quindi se ci sono bufale dalla app so che quell'informazione in realtà non è assolutamente stata validata. Rilevanti e validati per esempio vuol dire che la tal strada è libera piuttosto che la tal strada è completamente allagata. Anche questo tipo di informazioni, e su questo si può fare di più, cioè addirittura sull'app un utente può chiedere che venga calcolata la via di fuga. Ecco, questo è importante, cioè uno si trova nel punto X, è geolocalizzato perché c'ha il suo bello smartphone e dice devo andarmene da qui. Esattamente, e la app calcola la via di fuga sulla base di cartografia intelligente che sa quali sono i punti di ritrovo, quali le vie da evitare, quali punti potenzialmente pericolosi dai quali stare alla larga a seconda del tipo di alluvione e così via. Qui l'unica cosa che manca è la pubblicazione, se non sbaglio però, di questa app. Sì, sì, l'app per adesso sì, è scaricabile in beta con i beta tester, però non è ancora sugli store. perché riteniamo che possa essere sugli store solo quando sia un'app ufficiale che non introduca altra confusione, ma sia effettivamente riconosciuta e metabolizzata da Protezione Civile. Va bene, allora grazie Chiara Francalanci. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, appuntamento